morning. Buonasera. Lo spettacolo di stasera si intitola Canzoni d'amore. Tutti i testi sono di Ann Sexton, una poetessa americana morta nel 74, e sono stati tradotti per lo più da me, alcuni da amici quali Aldo Nove, Edoardo Zuccato. La serata, il lavoro si articola in varie parti, seguendo il percorso di vita e di esperienza di questa poetessa straordinaria. E il primo gruppo di poesie su cui abbiamo lavorato io, Simone Marrucci, che è il chitarrista, e Alessandro Querci, il bassista, sono poesie che riguardano l'infanzia e l'adolescenza. Poi ad ogni gruppo dirò un paio di parole, non di più, ma diciamo che il percorso è biografico, si va un po' dall'inizio alla fine dell'esperienza amorosa ed esistenziale di questa donna. Sola, in una grande casa con quattro garage, una notte d'estate, se ricordo bene, ero stesa sul prato e sotto di me increspato il trifoglio e sopra distese di stelle e la finestra di mamma un imbuto da cui usciva calore giallo. La finestra di papà semichiusa, un occhio da cui passa chi dorme. E le assi della casa erano bianche e lisce come cera, e milioni di foglie sbattevano come vele sui loro strani gambi, e grilli ticchettavano tutti insieme. E io, nel mio corpo nuovo fiammante, non ancora di donna, facevo domande alle stelle e pensavo che Dio vedesse veramente calore e luce dipinta e gomiti, ginocchia, sogni. Buonanotte. Un bacio nell'incavo del ginocchio e un fruscio di falena alla zanzariera e, sì, amore mio, un puntino luminoso sulle come, cioè campanellino con la tossetta, e due volte perderò l'onore e le stelle saranno confitte come puntine nella notte, sì, oh sì, sì, sì, due chioccioline all'incavo del ginocchio che accendono falò simili a ciglia che sfregano, sì, sì, sì, come pietrina d'accendino bic. Proprio rossa, ma del colore di una rosa che sanguina, è un fenicottero sperduto, da qualche parte detto rosa Schiaparelli, e non direi rosa, ma color sangue e caramella, cuoricini di cannella, ondeggia come mantelli negli impeccabili villaggi di Spagna, direi una falda di fuoco. E di sotto, come un petalo, una guaina rosa, tersa come pietra. Direi una camicia da notte di due colori e di due falde che fluttuano dalle spalle, le membra fasciando. Per anni la tarma li ha bramati, ma questi colori sono cinti da silenzio e animali larvati, ma brucanti. si potrebbe immaginare piume, non averne cognizione. Si potrebbe pensare alle tittane e non figurarsi le movenze di un cigno. Si potrebbe immaginare il tessuto di un'ate, toccarne i pelizzi e avvicinarsi all'idea. Il letto è devastata di dolci visioni. La ragazza spicca aleggiando dalla camicia da notte e dal suo colore, ha le ali legate sulle spalle come bendaggi. Adesso la farfalla la possiede, copre lei e le sue ferite. Non l'atterriscono begoni o telegrammi, ma certo questa camicia da notte ragazza, questa ammirabile creatura alata, non si avvede di come la luna l'attraversi fra due falde galleggiando. Quando l'uomo entra nella donna, come l'onda scava la riva ripetutamente, e la donna godendo apre la bocca e i denti le luccicano come un alfabeto, il logos appare mungendo una stella e l'uomo dentro la donna stringe un nodo, perché mai più loro due si separino. E la donna si fa fiore che inghiotte il suo gambo, e il logo s'appare e sguinzaglia i loro fiumi. Quest'uomo e questa donna, con la loro duplice fame, hanno cercato di spingersi oltre la cortina di Dio e ci sono riusciti per un momento, anche se poi Dio, nella sua perversione, scioglie il nodo. E adesso, come avete potuto sentire, la musica non è in una relazione di sottofondo con questi testi, ma di dialogo. E i testi sono stati letti dai musicisti e le sonorità sono state create in base alle emozioni, ai sentimenti e al verso delle poesie. Il secondo gruppo sono, diciamo, i primi approcci, potremmo dire, a un rapporto d'amore eterosessuale meno dopo abbiamo anche il gruppo omosessuale da presentare. Va bene, andiamo. Femmina, ma c'è una femmina sbagliata. Vai. Ecco. A dopo. Dopo domani. Sei lesbica? No! Thank you. Ero la ragazza della catena di Sant'Antonio, la ragazza tutta discorsi di bar e serrature, quella delle bollette del telefono, la foto sgualcita e i contatti persi, quella che continuava a dire ascoltami, ascoltami, mai, mai, e cose del genere. Quella con il bavero, tirato su fino agli occhi, con gli occhi blu, canna di fucile, con una veluzza sulla piega del collo che vibrava come un diapason, con le spalle nude come un palazzo, con quei piedini e quei ditini, con un vecchio gancio rosso in bocca, una bocca il cui sangue gocciolava nelle regioni orrende della sua anima, la ragazza che si addormentava sempre, era vecchia come i sassi, ogni mano un pezzo di cemento per ore e ore, e poi si svegliava dopo la breve morte ed era tenera come, delicata come, tenera e delicata come luce in eccesso, per niente pericolosa come un barbone che mangia o un topo su un tetto, senza botole, con niente di più onesto che la tua mano nella sua, con nessun altro che te, e cose del genere, nessun altro che te. Era avvolta nella pelliccia nera, nella pelliccia bianca, e tu mi svolgevi, e in una luce d'oro poi mi incoronasti, mentre fuori dardi di neve diagonali battevano alla porta, mentre 20 centimetri di neve cadevano come stelle in frammenti di calcio. Noi stavamo nel nostro corpo, stanza che ci seppellirà, e tu stavi nel mio corpo, stanza che ci sopravviverà. E all'inizio ti asciugai i piedi con una pezza, perché ero la tua schiava e tu mi chiamavi principessa, principessa. O allora mi alzai con la pelle d'oro e mi disfeci dei salmi, mi disfeci dei vestiti, e tu sciogliesti le briglie, sciogliesti le retini, ed io i bottoni, e ti sfeci le ossa, le confusioni, le cartoline del New England, le notti di gennaio, finite alle 10. E come spighe ci sollevammo per acri e acri d'oro, e poi mietemmo. Hai detto che la rabbia sarebbe tornata proprio come l'amore. Ho una sembianza nera che non mi piace. È una maschera, me la provo. Migro verso lei e la sua rana, s'accovaccia sulle mie labbra e defecca. È una vecchia, è anche povera. Ha provato a tenerla a dieta, non le do l'estrema unzione. C'è un bello aspetto che indosso, come un grumo di sangue. Me lo sono cucito sul seno sinistro, ne ho fatto una vocazione. La lussuria si è piantata in esso, e io ho accostato te e il tuo bambino allo sbocco del latte. Oh, la nerezza è assassina, e il colmo del latte trabocca, e tutto il meccanismo mi funziona, ed io ti bacerò quando avrò fatto a pezzetti un'altra dozzina di uomini, e tu morirai un po', ancora, ancora. Roteo, roteo sulle labbra, l'ombra allontanano e il fantasma del passato inventano un quadrante di lingue, ovvio profondo tanto. Ivi non è luogo, non letto, l'orologio non ticchetta, se non dove mi vibrano 4000 pulsazioni e in dove tutto è assenza, tutto è due che si toccano come coro di farfalle o come emisfero d'acque che trabocca verso terra e arretra e trabocca col bisogno che galoppa sulla pelle ad ogni picco di scaglio gridando. Mi smaglio, volano parole fuori posto ed io in deserto bevo e mi inchino a quel giardino, il seno al melone in quello, al fine al fiore di quello inebriante. Le mani sfregando in testa le capezzoli come stelle marine piccine per far delle nostre labbra risucchianti anelli lunatici finché diventano bolle le dita nostre nude come petali e il mondo altalenando pulsa. Innalzo le pelvi a Dio, che avvenga la vera conoscenza come i fiori irrompono dopo il lungo inverno. Le prossime sono sull'amore solitario. Sì, due chioccioline all'incavo del ginocchio che accendono farò, simili a cimbia che sfregano, sì, come pietrina d'accendino bic. E così esisto. L'orologio formicola, le dita come cani in fila, la pentola non bolle ancora rospi, la sala bianca d'inverno è senza mosche, la lepre s'acquatta nel muschio prima dello sparo, ma laccio scarpette rosse, non son mie, son di mia madre e furon di sua madre. Tramandate come un cimelio, ma nascoste come lettere sconce. La strada, la casa di cui fan parte, son celate. E tutte le donne pure son celate. Tutte le ragazze che portarono scarpette rosse salirono su un treno che non si fermò. Sfrecciarono fra corteggiatori senza fermarsi alle stazioni. Con loro si giocò. Ballarono come trote presi all'amo, a loro le orecchie come spille da balia si strappò. e caddero le braccia, diventarono cappelli, e rotolarono le teste, cantarono per strada, e i piedi, oddio al mercato, i piedi loro scarafaggi verso l'angolo sguisciati, balzarono poi danzando valdanzosi. La gente esclamò, di certo aveva automatico congegno, se no... Ma i piedi continuavano, i piedi non riuscivano a fermarsi, caricati a molla, come un cobra che ti fissa. Due elastici tirati al punto di spezzarsi, due isole durante un terremoto, due navi in collisione affondano, non badavano a te e a me, non potevano ascoltare, non potevano fermarsi. Quel che fecero fu la danza della morte, quel che fecero le finirà. Solitaria. La fine della tresca è sempre morte. Lei è la mia bottega, visci d'occhio, sfuggito alla tribù di me stessa, l'ansimo non ti ritrova, fa orrore a chi mi sta a guardare. Che banchetto, di notte da sola mi sposo col letto, dito dopo dito, ecco la mia, è lei il mio rendezvous, non è lontana. La batacchio come una campana a Michino, nel boudoir dove eri solito montarla. M'hai preso al nolo sul fiorito copriletto, di notte da sola mi sposo col letto. Metti ad esempio stanotte, amor mio, che ogni coppia s'accoppia rivoltolandosi di sopra, di sotto, in ginocchio s'affronta spingendo su spugne e piume l'abbondante duetto. Di notte da sola mi sposo col letto. Così vado dal corpo, un miracolo irritante, come posso mettere in mostra il mercato dei sogni? Sono sparpagliata, mi crocifico, mia piccola prugna, e quel che m'hai detto, di notte da sola, mi sposo col letto. Poi venne lei, la rivale occhi neri, signora dell'acqua, si staglia sulla spiaggia, con un pianoforte in punta di dita, parole flautate e pudore su labbra, mentre io cambio X, sembro uno scopetto, di notte da sola mi sposo col letto. Lei ti prese come una donna prende un vestito a saldo dall'attaccapanni, ed io mi spezzai come si spezza un sasso, tirando i libri e la roba da pesca. Ti sei sposato, il giornale l'ha detto, di notte da sola mi sposo col letto. Ragazzi e ragazze, son tutt'uno stanotte, sbottonano camicette, calano cerniere, si levano le scarpe e spengono la luce. Le creature raggianti sono piene di bugie, si mangiano a vicenda. Che gran banchetto, di notte da sola mi sposo col letto. Mio amante che torna da sua moglie. Lei è tutta là, per te con maestria fu fusa e fu colata, per te forgiata fin dalla tua infanzia. Con le tue 100 biglie predilette fu costrutta. Lei è sempre stata là, mio caro. Infatti è deliziosa. Fuochi d'artificio in un febbraio uggioso. E concreta come pentola di ghisa. Diciamocelo, sono stata di passaggio. Un lusso, una scialuppa rosso fuoco nella cala. Mi svolazzano i capelli dal finestrino su un fumo. Cozza fuori stagione. Lei è molto di più. Lei ti è dovuta. Ti incrementa le crescite usuali e tropicali. Questo non è un esperimento. Lei è tutta armonia. S'occupa lei dei remi e degli scambi del canotto. Ha messo fiorellini sul davanzale a colazione. Si è seduta a tornire stoviglie a mezzogiorno. Ha esposto 3 bambini al plenilunio. 3 puttini disegnati da Michelangelo. L'ha fatto a gambe spalancate nei mesi faticosi alla cappella. Se dai un'occhiata, i bambini sono lassù, sospesi alla volta come delicati palloncini. Lei li ha anche portati a nanna dopo cena e loro tutte e 3 a testa bassa, piccati sulle gambette, lamentosi e riluttanti, e la sua faccia vampa, neniando il loro poco sonno. Ti restituisco il cuore, ti do libero accesso al fusibile che in lei rabbiosamente pulsa, alla cagna che in lei tramesta nella sozzura e alla sua ferita sepolta, alla sepoltura viva della sua piccola ferita rossa, al pallido bagliore tremolante sotto le costole, al marinaio sbronzo in aspettativa nel polso sinistro, alle sue ginocchia materne, alle calze, alla giarrettiera, per il richiamo, lo strano richiamo. Quando annaspi fra braccia e poppe e dai uno strattone al suo nastro arancione, rispondendo al richiamo, lo strano richiamo. Lei è così nuda, è unica, è la somma di te e dei tuoi sogni. Montala come un monumento, gradino per gradino. Lei è solida. Quanto a me, io sono un acquerello, mi dissolto. Lesbo, così è per donne, non solo. Hai detto che la rabbia sarebbe tornata proprio come noi. Nudro verso lei e la sua mano. S'accovaccia sulle mie labbra e defeca. È una vecchia e anche povera. Ho provato a tenerla a dieta. Non le do l'estrema unzione. C'è un bell'aspetto che indosso, come un grumo di sangue. Me la sono cucito sul seno sinistro. Ne ho fatto una vocazione. La lussuria si è piantata in esso e io ho accostato te e il tuo bambino allo sbocco del latte. Oh, la nerezza è assassina. E il colmo del latte trabocca e tutto il meccanismo mi funziona. Ed io ti bacerò quando avrò fatto a pezzetto un'altra dozzina di uomini. E tu morirai un po'. Ancora, ancora. roteo sulle labbra. L'ombra allontanano e il fantasma del passato. Inventano un quadrante di lingue, ovvio profondo tanto. Ivi non è luogo, non letto. L'orologio non ticchetta, se non dove mi vibrano 4.000 pulsazioni. E in dove tutto è assenza, tutto è due. Che si toccano come coro di farfalle, o come emisfero d'acque, che trabocca verso terra e arretra, e trabocca col bisogno che galoppa sulla pelle, ad ogni piccolo scoglio gridando. Mi snaglio, volano parole fuori posto ed io in deserto. Bevo e bevo e mi inchino a quel giardino, il seno, al melone in quello, al fine al fiore di quello, inebriante. Le mani sfregando increspano i capezzoli come stelle marine piccine per fare delle nostre labbra risucchianti anelli lunatici finché diventan bolle le dita nostre nude come petali e il mondo altalenando pulsa. Innalzo le pelvi a Dio, che avvenga la vera conoscenza, come i fiori rompono dopo il lungo inverno. Il giorno delle poppe e dei piccoli fianchi, la finestra butterata di pioggia cattiva, pioggia accattivante come un prete. Folli e dementi ci accoppiammo, accoccolate mentre la pioggia sinistra gocciava come mosche sulla labbra, sugli occhi contenti, sui piccoli fianchi. È gelida la stanza con la pioggia di cesti, e tu femmina, col tuo fiore, recitasti novene alle mie giunture. Sei il prodotto interno lordo, una potenza, bocigno mio, vastasa, cara rosa lanosa. Anche un notaio ci autenticherebbe il letto quando mi impasti e lievito come pane. Che ho conosciuto a mezzanotte si infrangono come il mare in me adesso. Madre, mi sono messa delle api nella bocca per evitare di mangiare, ma ciò non ti ha fatto del bene? Alla fine hanno tagliato via le poppe e il latte si è riversato fuori sulla mano del chirurgo che le strinse a sé. Io gliele presi, le piantai. Ho messo un lucchetto su di te, madre, caro essere umano morto, così le tue grandi campane, questi cari bianchi toni, possono andarsene galoppando, galoppando, dovunque tu sia. Thank you. stesa sul prato, e sotto di me increspato un trifoglio, e sopra distese di stelle, e la finestra di mamma un imbuto da cui usciva calore giallo, la finestra di papà semichiusa un occhio da cui passa chi dorme, e le assi della casa erano bianche e lisce come cera, e milioni di foglie sbattevano come vele sui loro strani gambi, e grilli che cantavano tutti insieme, e io nel mio corpo nuovo fiammante, non ancora di donna, facevo domande alle stelle e pensavo che Dio vedesse veramente calore e luce dipinte, gomiti, ginocchia, sogni. Buonanotte. L'ultimo gruppo sono poesie scritte dalla Sexton poco prima di suicidarsi, sono poesie sull'incesto col padre. L'unica cosa importante era sorridere e star ferma, sdraiarmi accanto a lui per fare un riposino, ripiegati con baciare come scampoli di seta e celati allo sguardo della mamma, non parlare. La camera nera ci avvolgeva come caverna bocca interiora di un interno, trattenevo il respiro e papà era lì, quei pollici, il teschio grasso, quei denti, i capelli continuavano a crescere come un prato, uno scialle. Mi sdraiai accanto al muschio della sua pelle finché la muta avvenne. Le mie sorelle non sapranno mai come in estasi io cada fingendo che Allah non si accorga, come abbraccio il mio papà, vecchio albero pietrificato. Quel che ci manca sono le palle degli occhi, ma chi se ne frega, tanto tu hai fatto i quattrini, quattrini, quattrini, me li hai fatti toccare, strusciare le facce verdi, leccare le cifre, e così sei diventato il mio papà papà. E anche se lottavo da sola contro molestatori e fregaioli, sapevo che i tuoi soldi m'avrebbero salvato, il tuo eroismo, quel tuo come soldato, un'esperienza notevole, ho combattuto da solo per fare milioni, questa è la verità, ma ho vinto. Ed io che pregavo per i nostri uomini là in guerra, ma andava bene d'essere un'orfana dal sangue di nessuno, dei ricci accorti ai figli del telegrafo elettrizzati, mentre tu carcavi e scardinavi il trigo chiamato in azione, e facevi fuori i cattivi sempre, sempre, e sempre venivi nei pericoli, cristi neri dell'infanzia, sempre arrivavi quando il mio cuore restava nudo per strada e quelli gli tiravano mele marce o pesci morti da 12 giorni. Papà, papà, tutti abbiamo vinto quella guerra, quando mi ripetevi la solita solfa dei quattrini, enni, enni, cantavi, e allora sapevo che c'avevi la macchina d'oro puro e mettevi i diamanti nella coca che ti facevano quel suono, quell'adorabile scranocchio. Eppure luna c'era nel tuo portafoglio, e c'era anche l'oceano coi suoi silenti morti assopiti. Ed io sono sempre stata coraggiosa, vero? Non ho mai sanguinato, vero? Non ho mai intoppato in un esibizionista, no, no, Non ho mai visto un briaco darsi spatto. Non ho mai concesso che fulmini mi entrassero da un orecchio e uscissero dall'altro. Tutti quegli uomini là fuori non erano destinati a venire mai come diluvio a nuotarmi sulle poppe, mai a infilarmi le loro torce in pancia. No, no, sono io e il mio papà e il fragore dei suoi bambini a strafogarci di soldi come fossero cornflakes. E solo i cattivi morivano. Ma io sono morta ieri, papà. Sono morta trangugiando l'animale nazi nipponico che non uscirà, che continua a bussarmi dietro gli occhi, i miei grandi occhi d'orfana, scacciando finché gli occhi me li schippa fuori e anche il cane finisce a zampi all'aria e sputa fuori il suo segreto militare, sloppando con la sua gran lingua rossa, come avresti dovuto fare tu mentre saliamo sul nostro treno di velluto. La sera del matrimonio di mio cugino ero vestita di blu. Avevo 19 anni e ballammo, padre. Andavo in orbita. Un movimento ondulato, come d'angeli in vasca da bagno. L'ondeggiamento di due uccelli infuocati. L'ondeggio lento del mare in profondo, sempre più lentamente ondulante. L'orchestra suonava come ballavamo la sera delle nostre nozze. Nelle volute del valzer mi portavano, rigirandomi come la mensola in cucina. Ed eravamo cari, tanto cari. Ora che sei rigido, inutile come un cane cieco, ora che non puoi più scrutarmi, la canzone mi risuona nella testa. Puro ossigeno fu lo champagne che bevemmo e il tintinio dei bicchieri nel nostro cin cin. Lo champagne respirava come un sud e i bicchieri furono cristallo e la sposa e lo sposo avvinghiati nel sonno come una coppia alle vecchie maratone danzanti. Mamma ballò con 20 uomini, faceva la bellona. Tu ballavi solo con me, senza dire una parola. Ma il serpente parlò, quando m'hai stretta più forte, quel serpente beffardo si destò al contatto, seresse come un grande dio. E noi, l'uno ad un altro, i colli vicini, attorcigliando come due cigni solitari. Mi divorzio da papà, di bocca, di bocca. Da tutta la vita ogni giorno lo faccio, da quando da lui se ne suo si è staccato, trapanando e conficcandosi in un uovo, feto, feto. Arde, arde nella casa e esplode luminoso attraendo fame. Per anni è stato un donna, donna, poppe, culla, vasino, bambole, vestitini, donna, donna. Papà del whisky, papà dal fiato di gallo, veniva in visita e subito spigolava come fossi una malattia. Più tardi, quando sangue, uova e poppe mi cascarono addosso, papà col fiato al whisky mi fece una lunga visita notturna in un sogno che non è un sogno. E subito dopo chiamò il suo avvocato. Papà chiede il divorzio. Da allora seguitiamo a divorziare, vado in tribunale con mamma per testimone che siano morti da tempo, no, io ancora da lui mi divorzio e sommo i delitti come è venuto da me, come l'ha lasciata. Rassetto la camera da letto, apro e chiudo le finestre, faccio e disfaccio il letto, spennacchio, spiaccio i cuscini, mentre aspetto che torni a casa papà, aspetto, con l'imbottissa il nostro figlio infetto, finché io premia il visito venga, ma sposato il figlio. Thank you. Russo, Simone Marrucci, Alessandro Querci.